svenire, che tu sei la più alta di un'isola sommersa, che su ogni schiena stanca la cieca furia spezza. Perdonami, perdona queste mani che non hanno odore, perdonami, dispensa, io odio e sale, brucia il mio dolore, scatena la tempesta. Mio